come le tue fotografie. Di quattro cose inutili le ho tenute troppo tempo intorno a me. D'ora non posso più separarne. Parole d'ora non posso più.